Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E allora le notizie di oggi: il suolo si è abbassato fino a 70 centimetri per il sisma nelle zone rosse, nuova notte di paura e disagi per gli sfollati, questi a Norcia dopo le proteste arrivano le tende per chi non vuole andar via. Quei luoghi hanno un'anima, Renzi promette ricostruiremo tutto, la basilica di Norcia come quella di Assisi. Ma sulla manovra Bruxelles ancora insoddisfatta dei chiarimenti forniti dall'Italia, pesano anche i conti del terremoto, il Premier ora polemica fuori luogo. È in Svezia il Papa e ha parlato ai luterani, non possiamo rassegnarci alla divisione, ha detto, lo hanno voluto solo i potenti. Un incendio questa sera in Liguria, in provincia di La Spezia, ed è il rischio amianto ad Ameglia. Noi ricostruiremo tutto. Non ricostruiremo soltanto le case o le prime case, ricostruiremo le chiese, perché Norcia senza chiese vuol dire una Norcia senza identità. Ricostruiremo le realtà turistiche e commerciali. E allora l'avete sentito, il Premier Renzi. Buonasera da Effetto Notte, buonasera da Anna Migliorati. E allora cominciamo il racconto di questa giornata proprio dalle parole del Premier dopo il Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri che si è concluso pochi minuti prima delle 19, che ancora una volta si è riunito per tornare a fare i conti con il terremoto. Avete sentito la promessa innanzitutto. Quei luoghi hanno un'anima e quell'anima non la possiamo perdere. Nei luoghi del patrono d'Europa dobbiamo dare un messaggio di ricostruzione, ha detto Renzi. Ma si fa i conti con il terremoto, conti economici, con la manovra che ancora una volta è da rivedere, ancora una volta si riaprono le dispute con l'Europa, conti per il patrimonio artistico, la chiesa di San Benedetto di Norcia ritornerà come la chiesa di Assisi, ha detto Renzi, ebbene, e conti ovviamente con il dolore e la sofferenza di chi ha perso tutto e di chi continua ad avere ancora paura. Allora torneremo nelle zone del sisma con la nostra inviata più avanti in Effetto Notte, ma intanto un terremoto che di giorno in giorno ha numeri sempre più impressionanti. Un impegno in continua evoluzione, quello della protezione civile, che al momento è riassumibile in questi numeri. Oltre 15.000 le persone assistite direttamente dalla macchina degli aiuti. In particolare 500 sono state accolte negli alberghi nell'area del Trasimeno e oltre 4.000 nelle strutture sulla costa adriatica. I comuni di riferimento sono in particolare Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. Più di 3.000 quelle fuori casa nel Teramano. Numeri simili in Umbria, dove si ricorre anche a tende collettive. Il danno è diffuso. La viabilità resta uno dei problemi principali, spiega dalla Protezione Civile la direttrice dell'ufficio emergenze Titti Postiglione. Danno è un danno estremamente diffuso, ampio, e quindi anche tutte le fasi di cui si comincia a parlare di rilievo, di agibilità, necessitano di un'organizzazione diversa. Ancora controlli poi sulla situazione idrogeologica, completata invece la rialimentazione di tutte le utenze elettriche e della telefonia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono anche altri numeri impressionanti. Dall'inizio della sequenza sismica, iniziata il 24 agosto, sono state localizzate oltre 20.000 scosse. Scosse che stanno cambiando volto all'Italia, non solo per gli scenari da rovina. Dall'analisi delle immagini dei satelliti dell'area colpita dagli esperti, riferiscono di un abbassamento record del suolo. Sentite, Enza Loddo ha intervistato Simone Azzorri dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In queste ore stiamo elaborando delle immagini di alcuni satelliti radar con i quali contiamo al più presto di fornire una mappa delle deformazioni del suolo che si sono verificate in conseguenza dell'evento di ieri, così come uno studio che d'altronde abbiamo già fatto per il terremoto del 24 agosto e del 26 ottobre. È emerso un abbassamento del suolo di oltre 25 centimetri? Sì, siamo ancora in fase di studio preliminare di queste immagini, però le prime informazioni che stiamo ottenendo sono che, come anche previsto dall'intensità superiore del terremoto e dalla dinamica della rottura simile a quelli precedenti, stiamo misurando spostamenti che sì, superiori ai 25 centimetri, ma penso di non sbilanciarmi troppo nel dire che si arriva facilmente ai 50 centimetri e probabilmente anche di più, ai 70-80 centimetri di spostamento, di abbassamento in particolare. E dicevamo anche i conti per la ricostruzione. Europa e Italia trattano sulla flessibilità per l'emergenza. Le misure antisismiche dopo la nuova terribile scossa di terremoto lasciano posizioni ancora distanti. Bruxelles è insoddisfatta dei contenuti della lettera che il governo italiano ha inviato in replica ai rilievi della Commissione europea sulla legge di bilancio. Stando a fonti europee, anzi, la lettera inviata il 18 ottobre è stata ritenuta tra le meno costruttive insieme a quella di Cipro, mentre sono state promosse quelle inviate da Portogallo, Belgio e Finlandia. La bocciatura della lettera italiana non preclude tuttavia la possibilità di giungere ad un accordo tra Roma e Bruxelles sul punto più controverso, quello cioè delle risorse per il post-terremoto. Le spese per gli interventi direttamente legati all'emergenza però sono da considerare una tantum e quindi tali da non influire sui livelli di deficit per applicare il patto di stabilità. È populismo buon mercato, fa sapere sempre Bruxelles, accusare le istituzioni europee di ostacolare in Italia la ricostruzione con criteri antisismici. L'UE resta pienamente pronta ad aiutare la popolazione e le autorità italiane, ha ribadito il portavoce della Commissione europea, parole di solidarietà anche dalla Germania. Dopo aver espresso vicinanza ai feriti e agli sfollati e assicurato aiuti concreti da parte di Berlino, il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, ha sottolineato che il patto di stabilità non è un impegno che uno Stato membro ha assunto nei confronti di un altro Stato, ma di fronte a tutti gli altri Stati membri dell'UE. Per questo, ha concluso Seibert, tali questioni saranno da risolvere a livello europeo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torneremo a parlare di terremoto, anche dei conti, ma non solo. Vi ricordo intanto, come sempre, anche il nostro numero verde 349-238-6666. Effetto notte, come sempre, con voi fino alle 22. E per la politica non si schierano i vescovi italiani. Votare al prossimo referendum costituzionale senza fidarsi a slogan, ma esprimendo la propria volontà in modo sensato e ragionato, così ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, presidente della CEI. Ha parlato a margine di un incontro proprio a Genova sul tema della riforma costituzionale. E in Liguria restiamo con la cronaca, perché c'è un incendio in provincia di La Spezia ed è ad alto rischio. Ad Amelia il fuoco ha divorato il grande capannone adibito a fienile. In breve le fiamme hanno attaccato la copertura in Eternit. Colonne di fumo e allarme al confine tra Liguria e Toscana. Secondo ARPAL c'è la possibilità concreta di una ricaduta di fibre d'amianto per un raggio di almeno 1,5 km tra i comuni di Sarzana, Amelia, Castelnuovo Magra, Fos di Novo e Carrara. Per le 2000 persone che risiedono nell'area sono scattate le misure di autoprotezione. Il sindaco di Amelia, Andrea De Ranieri. Abbiamo previsto di mantenere le imposte chiuse per l'abitazione, evitare ogni tipo di attività all'aperto. Poi abbiamo dato l'ordinanza di sgombero alle abitazioni nel raggio di 100 metri, sono delle case rurali. E per la giornata del 2 novembre abbiamo disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il rogo è stato circoscritto ma non ancora completamente domato. Solo allora l'allarme potrà rientrare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Arriva, come si suol dire, fuori tempo massimo per Bernardo Caprotti, il patron di Esselonga, morto il 30 settembre scorso. La sentenza depositata oggi dalla Cassazione di fatto riapre il processo civile per risarcimento danni da concorrenza sleale per denigrazione. Ricorderete per il libro Falce Carrello, nel quale venivano lanciate varie accuse al sistema antagonista dei supermercati e delle cooperative. La Corte di Cassazione ha sostanzialmente riconosciuto la correttezza delle conclusioni della Corte di Milano, dunque la causa di risarcimento danni si riapre, un problema che però riguarderà gli eredi di Caprotti. Andiamo anche negli Stati Uniti, è vicinissimo ormai la data del voto per la Casa Bianca, sarà l'8 novembre, la campagna elettorale in America si combatte a suon di accuse e di inchieste dell'FBI. Sul fronte Clinton, il caso non c'è, ha scandito Hillary poco fa in un comizio riferendosi all'Emailgate. Guardino le mail come è giusto che sia, ha detto, dicendosi certa che le conclusioni non saranno diverse da quelle in cui si era giunti in passato, quando ricordiamo il caso era stato archiviato senza accuse formali. E a parlare però alla fine è stato costretto anche l'addetto stampa della Casa Bianca, Josh Earnest. I'll neither defend nor criticize what Director Comey. Il presidente Barack Obama non crede che il direttore dell'FBI James Comey stia tentando di influenzare il voto presidenziale per beneficiare un candidato, ha detto. La Casa Bianca non ha avuto alcun ruolo nella sua decisione. Il capo dell'FBI, ricordiamo, ha scatenato la bufera informando il Congresso che stava studiando nuove email del server privato della Clinton e fa parte dello stesso partito della Clinton. Clinton che Dunque torna nell'indagine dell'FBI e indagine dell'FBI prova a colpire anche il campo democratico, perché l'FBI avrebbe ora in mano anche informazioni cruciali tra i rapporti tra la campagna di Donald Trump e il governo russo di Vladimir Putin. Così dice il leader della minoranza al Senato americano, il democratico, questa volta Harry Reid, in una lettera inviata sempre al capo dell'FBI. Dunque potrebbe aprirsi anche il fronte Trump, sempre all'FBI. Ne parleremo più avanti, perché c'è un'altra battaglia che è in furia, e questa è una battaglia però sul campo, vera, in Iraq, per la riconquista di Mosul. Dall'alba di oggi nuova offensiva, avanzano ancora le truppe, e allora l'analisi di Alberto Negri. A due settimane dall'inizio dell'offensiva per riprendere Mosul, un'unità irachena dell'antiterrorismo è penetrata per la prima volta nell'area urbana, nel quartiere orientale di Karama. Ma la riconquista di Mosul non è questione né di ore né di giorni. Secondo fonti militari siamo ancora alla prima fase, quella in cui si cerca di assediare il califfato e allo stesso tempo di rendere più sicure le retrovie. I jihadisti, con attentati e incursioni, sono ancora in grado di colpire Baghdad e le città curde. Poi partirà la seconda fase per la riconquista della città, e qui il problema non è solo militare ma anche politico e umanitario. L'ISIS tiene in ostaggio migliaia di persone ogni giorno di giustizia dozzine. Anche nel momento in cui sarà sconfitto si servirà di ondate di profughi per farsene scudo durante la fuga. Questa è un'operazione anche politica. Mosul è sotto assedio delle forze irachene regolari, dai peshmerga curdi ma anche dalle milizie sciite, e in più ci sono quelle sunnite addestrate dalla Turchia. È evidente che tutti vorranno prendersi un pezzo di città per rivendicarne la conquista e far pesare questa vittoria sotto il profilo politico. Mosul non è solo la città del califfato, ma è anche il simbolo della futura spartizione dell'Iraq in zone di influenza. C'è il calcio che gioca questa sera per chiudere l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Si è concluso Udinese-Torino, è finita sul 2-2. È in corso proprio da qualche istante Cagliari-Palermo. Siamo ancora sullo 0-0. Ci fermiamo qualche istante, torniamo ancora con Effetto Notte, come sempre, insieme fino alle 22. Vi ricordo ancora 349-238-6666. Dobbiamo ricostruire e da ricostruire l'Italia crollata per il terremoto. Abbiamo in qualche modo perso un'anima. Una piccola pausa, torniamo ancora tra pochissimo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. E allora le notizie di oggi, ancora riepiloghiamole. Il suolo si è abbassato fino a 70 centimetri per il sisma nelle zone rosse, una nuova notte di paure e disagi per gli sfollati. A Norcia, dopo le proteste, arrivano le tende per chi non vuole andare via. E intanto il premier Renzi promette: ricostruiremo tutto, la Basilica di Norcia come quella di Assisi, perché quei luoghi hanno un'anima. In arrivo anche nuove forze di polizia. Ma sulla manovra, Bruxelles insoddisfatta dei chiarimenti forniti dall'Italia, e il premier dice: ora la polemica è fuori luogo. In Iraq l'avanzata dell'esercito che è arrivato ormai a Mosul, ma è ancora strage dell'ISIS, 350 le persone massacrate. E l'incendio in Liguria, in provincia di La Spezia, a rischio amianto ad Ameglia, e in queste ore sono in corso i controlli. Queste le notizie di oggi, ma ripartiamo da quelli che sono senza dubbio impressionanti numeri del terremoto. Ve l'abbiamo raccontato, in Umbria si stanno allestendo le tende collettive, altri sfollati hanno fatto una scelta diversa, come le 2000 persone delle Marche, che hanno raggiunto in massa il luogo di raccolto e di smistamento di Porto e Sant'Elpidio sulla costa adriatica in provincia di Fermo, perché nelle tende non vogliono starci. E poi ci sono 3000 persone in Umbria, 7000 nelle Marche, numeri destinati a salire, numeri davvero impressionanti, perché si allarga sempre più il fronte. Oggi la notizia è la rivolta degli abitanti di Norcia, quelli che proprio non vogliono andarsene. Non è che voglio stare lì a bidaccia, ma almeno fammi entrare per pia qualcosa. Lui tutto lì, sporco, tutto, come siamo scappati ieri mattina. Io voglio solo quello, non voglio stare lì chissà. Cioè, quindi voi siete qui perché avete bisogno di essere accompagnati? Certo. Io basta che mi danno 10 minuti per il cimola qualcosa, poi me ne vado da mio figlio, dopo sto a posto. Però qualcosa per cambiare mi serve. Ma voi dove siete stati questa notte? Noi abbiamo una roulotte qua su da mia figlia, e siamo tutti là dentro. C'è pure un signore che ha 92 anni e non si può muovere. Tutta la notte chiama, perché lui è abituato a casa sua e si trova a disagio dentro la roulotte. Io vivo a casa dei miei figli, minore, a Piedi Paterno, lui problemi col cuore, niente di quattro, basta. E quella che è iniziata è un'altra notte. Allora, Norcia, torniamo dalla nostra Raffaella Calandra. Ciao Anna, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Sì, è cominciata un'altra notte che sarà in ogni caso una notte difficile, nella speranza che sia almeno una notte meno ballerina, diciamo, della precedente, perché la notte scorsa ininterrottamente la terra ha tremato, così come anche per l'intera giornata di oggi, gli spostamenti, qualsiasi cosa era comunque accompagnata da questo continuo sussultare della terra che, devo dire, rinnovava ogni volta la sensazione, appunto, non solo della paura ma anche della consapevolezza che non è finita. Norcia, come dicevi, come abbiamo sentito anche dalle voci di alcuni dei tanti sfollati che abbiamo incontrati, la gente è determinata a restare nonostante il freddo incombente, nonostante i disagi, ma a restare poco lontani dalle loro antiche mura. Lo fanno gli abitanti di Norcia, ma lo fanno un po' tutti gli abitanti di questi piccoli borghi della Varnerina che oggi ho praticamente potuto attraversare in lungo e largo in queste strade. Ecco, ancora... Raffaella, mi fermerei solo un attimo con te a Norcia, perché fa impressione, era stato indicato come il comune virtuoso della scossa del 24 agosto, con un sindaco in qualche modo eroe che aveva messo in sicurezza il paese. Ora invece proprio questo sindaco oggi è stato bersaglio di queste contestazioni. Perché? È paura? È tanto tempo? Ma le contestazioni in realtà nascono da un'altra ragione, nascono dalla richiesta di avere delle tende. Molti dicono che le tende sono state tolte troppo presto dopo il sisma del 24 agosto. C'è anche chi dice che forse per non avere un marchio di un paese terremotato, cosa che avrebbe potuto avere effetto negativo sul richiamo dei turisti, che sono tanti a visitare questo cuore, appunto, dell'Umbria. Quindi quello stesso sindaco che in queste ore stava cercando di fare da mediatore rispetto all'appello della Protezione Civile di lasciare queste zone così colpite dai terremoti e andare o verso il lago Trasimeno o lungo la costa marchigiana, è stato appunto oggetto di bersaglio, di critiche appunto dalla popolazione. Di chi non se ne vuole andare, insomma. Che non se ne vuole andare, fino a che, appunto, come ricordavi, una grande struttura per 300 posti sarà allestita da questa serata, e anche un autobus è diventato un riparo per altre persone che stanno accettando condizioni estremamente disagevoli, come anche il dormire in auto pur di non allontanarsi, pur di restare così lì anche, vicino. Esatto, così anche in un camper, ad esempio, hanno dormito la notte scorsa e lo faranno la prossima i 13 residenti di Castelluccio, il paese isolato che oggi ho visitato. Ecco, ci racconti anche di Castelluccio e chi hai trovato? Allora, innanzitutto il racconto parte dal viaggio per arrivare a Castelluccio, perché la strada è ancora interrotta perché ci sono delle frane e io sono riuscita ad arrivarci grazie ad un passaggio di un'auto dei soccorsi, del soccorso alpino, per 2 ore lungo una mulattiera piena di sassi caduti dalle montagne. A Castelluccio quello che non si è trovati ormai, credo che non si trova più ormai, è il paese, perché il paese, questo che era considerato il tetto dell'Umbria, uno dei paesi gioiello di questa zona, è interamente crollato, e non è una esagerazione, non c'è una casa che stia in piedi. Una dietro l'altra le case si sono accasciate su se stesse, per cui si cammina, come ho potuto fare io, su un'intera collina di macerie, si cammina su tetti che sono ormai diventati arrivati all'altezza della strada, su tegole, su camini e impressionanti davvero. Raffaella, sentiamo altrettanto impressionante le voci che è raccolta Castelluccio. È stato attaccato il container addosso al trattore per paura che se no si sono portati al vento, quindi è stato attaccato addosso alle misure. Siete voluti muovere voi oppure non c'erano alternative? No, non ci sono alternative, vedi, soccorsi? A parte che abbiamo il bestiame, dobbiamo restare qui per bestiame. Che non ci avete da mangiare? Niente, Castelluccio, ecco, il paese è disintegrato completamente. Prima già stavamo tutti in albergo, che non si poteva rientrare sulle case. Non c'è niente. L'acqua non c'è perché comunque la rete è chiusa. Non c'è l'acqua. Quanti siete rimasti questa notte? 15-20. Tra i 15-20. Ci sono qui intorno, ogni ogni sazzo c'è un pastore, ogni gregge di pecore c'è un pastore. Le vostre case sono... Il castelluccio è tutto finito. Non distrutte. Quelle che stanno in piedi si tengono perché stanno in piedi, ma dentro sono tutte crepate le case. Il castelluccio è finito, non c'è più. Renzi ha assicurato in Consiglio dei Ministri, l'abbiamo sentito prima, che i container arriveranno prima di Natale, ha anche promesso di ricostruire i simboli di questi paesi, il cuore di questi paesi, a cominciare dalla Basilica di Norcia. Staremo a vedere. Grazie intanto del tuo racconto, Raffaella Calandra. Ciao Anna. E naturalmente ti ritroveremo ancora per raccontarci cosa succede. C'è un altro aspetto che davvero fa paura. Sta cambiando il volto dell'Italia questo terremoto dal punto di vista di quelli che sono i suoi simboli, ma anche del suo terreno fisico, perché sono state acquisite, come sempre, come accade in questi casi, le immagini anche dei satelliti dell'area colpita dal terremoto. Ebbene, pare che ci sia stato un abbassamento del suolo superiore a 25 centimetri, vicino a Norcia addirittura fino a 70 centimetri, stando al satellite dell'Agenzia Spaziale Europea. Ovviamente le indagini sono in corso, le analisi sono in corso, le vedremo nelle prossime ore, ci hanno promesso queste immagini. Fatto sta che dall'inizio della sequenza sismica del 24 agosto ci sono state oltre 20.000 scosse. C'era da aspettarselo. Io saluto Domenico Giardini, docente di sismologia al Politecnico di Zurigo, che è membro di una commissione importante, la Commissione Nazionale dei Grandi Rischi, di cui proprio è referente per il settore rischio sismico. Benvenuto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, prima del terremoto dell'Aquila si disse che proprio la Commissione Grandi Rischi rassicurò troppo. Questa volta è impressionante, ma me lo confermi se è vero, un vostro verbale di una riunione della scorsa settimana, quindi prima della scossa tra sabato e domenica, in cui dicevate: attenzione, ci saranno altre scosse forti. È vero? Dunque, il verbale è in linea, quindi può essere consultato. Diciamo che io non posso fare nessun confronto con l'Aquila perché non ero coinvolto ai tempi dell'Aquila. È vero che in questo caso l'analisi della sequenza, della storia sismica di questa zona, della storia sismica dell'Appennino centrale e delle peculiarità del sistema di faglia che troviamo in questa area avevano portato a identificare una serie di possibili o verosimili scenari che sono stati presentati alla Protezione Civile. Uno dei quali appunto ahimè si è avverato. Sì, la Protezione Civile ha usato per mettere in sicurezza l'area. Perché è così diverso da altri sismi? Mi spiego e vado sul semplice. Di solito c'è una forte scossa, poi pian piano si va a calare. Qui sembra il contrario, ogni volta è peggio, o è solo una nostra impressione da profani? No, ma non stiamo parlando di un evento singolo, questa è una sequenza. L'area dell'Appennino centrale è una delle aree più attive in Italia, quindi i terremoti si tornano con una frequenza nota ogni qualche decino o al massimo centinaio d'anni per i terremoti più forti, e in questa area dell'Appennino molto spesso vanno in sequenza. L'abbiamo visto in passato nel 1703, nel 1639, gli eventi non vengono da soli, ma un pezzo di faglia rompe dopo l'altro, e quando rompe un pezzo di faglia fa partire anche quella dopo. Può succedere dopo poche decine di secondi, può succedere dopo qualche mese. Quindi siamo di fronte in qualche modo ad un fenomeno un po' diverso? O perlomeno che... Non per questa area. Diverse aree hanno fenomenologie diverse, diciamo. Questa, in questa area, è un tipo di sismicità che possiamo definire come attesa. È successo tante volte in passato, non è una sorpresa che l'abbia fatto questa volta e che lo stia ancora facendo. Detto così, però, sembra senza fine. No, non è senza fine. Se lei ricorda la sequenza di pochi anni fa, che cominciò con Assisi, col crollo nella chiesa, durò sei mesi con 5 eventi di dimensioni maggiori. In quel caso non erano di dimensioni grosse come quello, però si propagò un pezzo dietro l'altro per sei mesi. Qui ad agosto lo scenario che era disponibile era non una rottura singola seguita da repliche di assestamento, ma la possibilità che si propagasse più a nord e più a sud di quella che aveva rotto ad Amatrice, per una ragione ben specifica, che quest'area non ha subito terremoti così grossi negli ultimi, diciamo, tre secoli, dal 1703 dal 1639, quindi è un'area che stava aspettando un terremoto che stava grosso. Aspettando il terremoto grosso, un po' come quei big quei grossi terremoti di cui parliamo spesso negli Stati Uniti. Questo è stato il nostro grosso episodio. Similitudini con Assisi, quindi più che con gli altri terremoti, è una singolare coincidenza, visto che proprio diciamo che la Basilica di Norcia dovrà essere ricostruita con quella di Assisi. È quello più vicino come similitudini per quanto riguarda il nostro paese? No, ne abbiamo avuti tanti, se lei ricorda il Friuli nel 76, due scosse a distanza di 6 mesi. Beh, qui insomma ne parliamo di tante. Sì, non è sì. Un'eccezione, è il fatto che i terremoti possono andare in sequenze, non diciamo una botta secca, se vuole chiamarla così, è una cosa che nella nostra quindi storia voi come Commissione Grandi Rischi, se doveste riunirvi, direste ancora, attenzione, ne possono succedere altri? Dunque, noi ci siamo riuniti venerdì scorso e abbiamo dato un messaggio chiaro alla protezione civile che l'ARA non aveva esaurito il suo potenziale, c'erano altri scenari possibili. Ma l'ha esaurito ora? Probabilmente possibili. No? Nell'area che ha già rotto è più probabile di sì, questo è stato un terremoto particolare, ha rotto 2 volte nella stessa area di faglia. Quest'ultimo? Sì, quest'ultimo, 6 e 5 si è abbattuto sulla stessa zona di faglia, per quanto è un sistema di faglia complesso, comunque diciamo nella stessa zona che aveva già rotto 4 giorni prima e anche ad Amatrice, l'ha interessata tutta, rimangono i segmenti a nord e a sud. Quindi potrebbe paradossalmente anticipare una pausa quantomeno? No, non c'è nessun modo né di anticipare né di posticipare. Qui si tratta di identificare quali sono i possibili scenari che sono al momento a rischio. Un 6 e 5 si è mosso di tanto, lei ricordava prima di quanto si è abbassato il suolo in superficie, questo riflette la deformazione e lo slip che abbiamo avuto sulla faglia, che è uno slip maggiore, un 6 e 5 è un grosso evento, e come tale tutti i segmenti di faglia nei limitrofi sono sotto potrebbero sotto tensione. Sì. Grazie a Domenico Giardini, Commissione Nazionale Grandi Rischi, per essere stato con noi, ci ha spiegato un po' di più cosa è successo e cosa ancora, ahimè, potrebbe succedere. C'è un'altra piccola pausa per noi, proseguiamo tra pochissimo. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Effetto notte, riepiloghiamo le notizie di oggi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Il suolo si è abbassato fino a 70 centimetri per il sisma nelle zone rosse. Una nuova notte di paura e disagi per gli sfollati. A Norcia, dopo le proteste, arrivano le tende per chi non vuole andare via. Quei luoghi hanno un'anima, promette Renzi. Ricostruiremo la Basilica di Norcia come quella di Assisi. Verso il voto alla Casa Bianca, la Clinton mantiene un vantaggio di 6 punti secondo l'ultimo sondaggio dell'NBC. Il Dipartimento di Giustizia promette saremo veloci ad esaminare le email della Clinton. In Svezia il Papa parla ai luterani, non possiamo rassegnarci alle divisioni, lo hanno voluto i potenti. È un viaggio importante, perché è un viaggio ecclesiale, molto ecclesiale nel campo dell'ecumenismo. Il vostro lavoro aiuterà tanto a capire. Che la gente lo capisca bene. Così il Papa partendo da Roma per la Svezia, dove accolto da un applauso caloroso dei fedeli nella cattedrale luterana di Lund, ha firmato la dichiarazione congiunta luterano-cattolica, una sorta di simbolica pacificazione. Si deve riconoscere che la nostra divisione, ha detto il Papa, è stata storicamente perpetuata da uomini di potere di questo mondo più che per la volontà del popolo fedele. Ancora una buona serata da Anna Migliorati. Allora, effetto notte vola anche in Svezia proprio per cercare di capire cosa è successo oggi in Svezia, dove c'è Carlo Marroni. Benvenuto. Sì, grazie a te Anna, buongiorno, buonasera a tutti. Sì, il Papa ha fatto oggi questa giornata dedicata alla riappacificazione con i luterani. infatti diciamo così, il processo è più complesso perché è la fine di 50 anni di dialogo, però questo Papa ha accelerato molto perché da tempo sta cercando di riannodare i fili con gli altri cristiani del mondo, che sono tantissimi. I protestanti, i luterani sono una parte dell'intero protestantesimo, sono 800 milioni in tutti, i luterani solamente 80 milioni, e lo aveva fatto già precedentemente con gli ortodossi. Quindi questo è un fatto che diciamo fissato oggi, ma avrà le sue ripercussioni verosimilmente negli anni a venire. Questo è un Papa che piace ai luterani, lo hanno detto di qua e di là. Sì, e piace perché molto, diciamo così, di apertura su questioni che, diciamo così, il mondo luterano e protestante vede con maggiore attenzione. Non parliamo solo delle donne, che qui sempre, oggi il Papa è stato accolto da un vescovo donna. Hai firmato con un vescovo donna? No, l'ho firmato un altro, con un vescovo palestinese, però diciamo il primate qui della Chiesa è un vescovo donna, diciamo, erano due figure importanti, di cui appunto una donna. Questa è significativo perché la Chiesa, naturalmente la Chiesa Cattolica, è chiara su questo, non ci sarà il sacerdozio delle donne, però Papa, come sappiamo, ha aperto una commissione per discutere del diaconato delle donne, che è una cosa diversa. Piace a tutti quanti i cristiani nel mondo perché riannoda dei fili che in qualche modo si erano persi, e questa è la forza, e piace ai fedeli, non solo ai vertici, e sta funzionando. Cosa ci cambia in concreto questo accordo con i luterani? Rende fatto a, nell'immediato, nulla, diciamo così. C'è una spaccatura storica, la riforma, da cui è venuta la controriforma, diciamo anche periodi bui della storia d'Europa che portarono alla guerra dei 30 anni. Stiamo parlando di epoche lontane. Certo, ma che, in qualche modo riconducono dei fili, ecco. Si riconnettono dei fili importanti, siamo nel cuore dell'Europa, diciamo, riformata, ma dialoghiamo ormai, e queste cose poi alla fine hanno un effetto anche sulla politica, oggettivamente la politica quotidiana, che non riguarderanno, diciamo così, movimenti i cui effetti si vedranno nelle questioni, per esempio, delle guerre, delle paci, dei rapporti con i russi, con gli americani. Tutte queste sono questioni che poi tornano al pettine prima o poi. Allora, grazie a Carlo Marroni, ti ritroveremo naturalmente ancora nei nostri GR24. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te, Anna, ciao a tutti. 21:38 minuti, torniamo però ancora al terremoto. Siamo in presenza di un evento realmente straordinario. Io vorrei che noi, sollevati e confortati come siamo dal fatto che non vi sono state vittime in questo nuovo sisma, non dimenticassimo che siamo in presenza di uno dei più gravi terremoti della storia dell'ultimo secolo. Non ci sono solo slogan, però ci sono anche cose concrete da fare. Il Consiglio dei Ministri si è riunito di nuovo, l'abbiamo detto, si è concluso pochi minuti prima delle 19. Cosa è stato deciso questa volta? Cosa si farà in concreto? A seguirlo c'era il nostro Andrea Viali. Sì, buonasera Anna. Dunque, abbiamo sentito Renzi parlare di evento straordinario e ha detto che per rispondere a questo evento straordinario, ha spiegato che nelle prossime 72 ore il governo varerà un ulteriore decreto che si aggiunge, lo ricordiamo, a quello che è già in discussione in Parlamento, che servirà da un lato ad accelerare le procedure, dall'altro a mettere ulteriori risorse in termini di personale, che vuol dire che arriveranno nuovi uomini delle forze dell'ordine nei comuni terremotati, ma arriverà anche nuovo personale nei comuni, personale che dovrà sbrigare le pratiche burocratiche che sappiamo sono molte, legate al terremoto e poi alla ricostruzione. Poi per quanto riguarda invece le risorse, Renzi ha detto che sono già presenti nella manovra, ma se necessario ne verranno stanziate altre. Poi c'è il capitolo dell'assistenza agli sfollati, invece qui Renzi ha ribadito che non verranno allestite tendopoli, fa troppo freddo, lo ha ripetuto più volte anche la Protezione Civile. Il Premier ha comunque assicurato però che entro dicembre nelle zone terremotate arriveranno i container per dare alloggio agli sfollati. Sentiamo le sue parole. Non possiamo mettere le casette in un arco di un mese e mezzo, due mesi, perché le casette hanno bisogno di tutta una serie di operazioni di urbanizzazione che non sono immediate. In contatto con i sindaci possiamo scegliere di avere dei containers che nell'arco di qualche settimana, noi diciamo orientativamente prima di Natale per poterci stare larghi sui tempi, ma vogliamo fare prima, possono permettere ai cittadini di rientrare sul territorio il prima possibile. Ecco, questo diciamo per quanto riguarda la prima emergenza, poi naturalmente ci sarà da affrontare anche la ricostruzione, più no? Esattamente, ecco, a questo proposito Renzi ha detto che verrà ricostruito tutto, anche le chiese, le strutture turistiche, le strutture commerciali, la stessa Basilica di San Benedetto a Norcia ritornerà così come è accaduto per quella di Assisi, ha detto il Premier che insomma... Su questo stiamo parlando di tempi molto più lunghi. Beh, certamente sì, però ha detto che è anche un simbolo ricostruire basiliche come quella di San Benedetto a Norcia. Poi c'è il capitolo anche dell'Unione, dei rapporti con l'Unione Europea, che lo ricordiamo ha mosso qualche rilievo alla manovra varata dal governo, soprattutto per quanto riguarda le risorse stanziate certo. per la ricostruzione. Non c'è nessun braccio di ferro con l'Europa. Quello che serve lo mettiamo, ha detto Renzi, aggiungendo che l'Italia sta rispettando le regole europee, regole che prevedono appunto clausole legate ad eventi eccezionali, come eccezionale, ha detto Renzi, a questo terremoto. Direi che insomma l'emergenza c'è, questo è l'ennesimo passo, soprattutto l'abbiamo sentito, ce l'hai detto Andrea, container si spera prima di Natale. Grazie allora ad Andrea Viale, anche a te naturalmente, con te naturalmente l'appuntamento è ancora nei nostri GR24. Domani però ricordiamo anche questo, il 1° novembre, quindi c'è, per molti italiani significa la tradizionale visita ai cimiteri, ancora 3 italiani su 4, il 73%, quasi il 73% insomma lo farà e però in questo, anche questo, il terremoto rende difficile. Il comune di Ascoli Piceno ha disposto la chiusura ad esempio di i cimiteri comunali, altrettanto a Teramo chiusi tutti i cimiteri proprio per l'emergenza terremoto, al di là ovviamente delle zone più colpite dal sisma. E poi c'è la questione scuole, ovviamente chiuse nella zona rossa, sotto esame nelle zone limitrofe, le scuole di Viterbo saranno chiuse fino al 5, così come a Rieti. Il caso che è esploso è Roma, perché in questi giorni i ragazzi sono a scuola, ma poi che succede? Ha parlato la sindaca Raggi. Nel frattempo abbiamo visto che abbiamo un piano di evacuazione fermo al 2008, quindi già ci siamo attivati per rinnovarlo, rivederlo e aggiornarlo, e al momento comunque la situazione continua a rimanere sotto controllo, con vigili del fuoco e polizia che presidiano la città, che vengono ovviamente attivati da segnalazioni e vanno a verificare e controllare qualunque tipo di crepa o cedimento possa manifestarsi. Sono 50, fatto sapere poco fa il Campidoglio, le verifiche fatte nella scuola della capitale, ma sono arrabbiatissimi i presidi, Associazione Nazionale Presidi, Mario Rusconi è presidente della sezione di Roma e del Lazio. Benvenuto. Buonasera. Siete arrabbiati perché? Ma più che siamo arrabbiati, siamo profondamente delusi ormai da anni, anche diciamo in seguito di questa ultima evenienza, perché gli uffici tecnici dell'ente locale, provincia per ciò che è rimasto e città metropolitana per quello che adesso diciamo è subentrato, i controlli che vengono fatti nelle scuole, che venivano richiesti anche prima del terremoto, sono sempre più rari. Abbiamo avuto persino l'anno scorso, pensi, con un'altra amministrazione comunale, la provincia di Roma inserita nella città metropolitana, che scriveva a tutte le scuole superiori: non chiedete più banchi e sedie perché non abbiamo i soldi. Infatti noi avevamo detto la battuta è la didattica seduti per terra. Cioè c'è un, diciamo così, c'è sempre stata una grande disattenzione, e adesso anche a seguito dell'emergenza e adesso del viene fuori il nodo ovviamente con la questione fuori terremoto. Ancora più, perché sentire dal sindaco che ci sono stati 50 controlli quando gli edifici a Roma, fra scuole dell'infanzia, elementari, medie, superiori, ecco, quanti sono? Sono più di 1000, perché più di 1000 se ne sono state fatte controllati 50. Ecco, ma è vero che è 50? Stato chiesto ai presidi di chiedere loro il controllo? Sì, guardi, è arrivata stamattina proprio una mail. Tra l'altro oggi le scuole sono chiuse, quindi non sappiamo. Domani sono chiuse e i genitori devono sapere cosa fare mercoledì. Neppure, no, ma dico, è arrivata stamane una mail alle scuole chiuse, qualche preside era presente a scuola, ma le scuole oggi erano chiuse, in cui si diceva: oggi e domani ci dovete garantire una persona, è stato detto anche telefonicamente a diversi colleghi, tutto il giorno che stia a scuola, perché probabilmente arriveremo. Ecco, a noi sembra che ci sia molto pressapochismo, molta superficialità nell'affrontare un problema di questo tipo. Non vogliamo colpevolizzare nessuno, vogliamo dire di fronte a un'emergenza bisogna avere la chiarezza di dire siamo in una situazione difficile, interverremo in questo modo, noi non sappiamo neppure quanti interventi effettivamente sono stati fatti, se è stato dato l'incarico ai tecnici del comune di rilasciare appena hanno fatto un intervento, di rilasciare una sorta di certificazione di agibilità, certo. Niente meno, in alcuni municipi sono stati mandati delle checklist ai presidi dicendo questa la adopereremo nei prossimi giorni, però nel frattempo datevi da fare. A noi il bricolage non piace, piace appunto una amministrazione seria. Ma non ce l'avete solo con questa, mi pare di capire. No, purtroppo il problema è annoso, soltanto che adesso avevamo, diciamo così, è venuto al pettine il nodo, ovviamente. Ovviamente, perché era stato detto che sarebbe stata cambiata tutta. Possiamo rassicurare però i genitori che rimanderanno i figli a scuola? Ma guardi, in genere a Roma non ci sono state gravi lesioni, io sono in contatto questi giorni con centinaia di colleghi anche attraverso una chat che noi abbiamo tutti i giorni, non ci sono gravi lesioni, laddove ci fossero situazioni che poi la stessa scuola dovrà andare a verificare, è chiaro che sarà anche il preside ad allertarsi e a dare appunto indicazioni. Quindi insomma comunque le sentinelle le farete? Sì, faremo le sentinelle, fermo restando che però noi auspichiamo che appunto l'ente locale faccia il suo lavoro fino in fondo. Noi certo. Spendiamo soldi di tasse e votiamo proprio perché vogliamo. Non ognuno ci interessa il colore. Suo. Ma non ci interessa il colore del gatto, come dicono i cinesi, ci interessa che prenda il topo, non stiamo vedendo molti topi. Grazie allora all'Associazione Presidi Italiani, vicepresidente Mario Rusconi. Una piccola pausa, abbiamo ancora altro però da raccontarvi, restate con noi. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Non c'è Roberta Giordano, ancora una buona serata da Anna Migliorati, ma ci sono le notizie di Effetto Notte. La giornata di oggi si è abbassato fino a 70 centimetri per il sisma nelle zone rosse, il suolo italiano, una nuova notte di paura per i disagi per gli sfollati a Norcia, dopo le proteste arrivano le tende. Quei luoghi hanno un'anima, Renzi promette, ricostruiremo tutto, la Basilica di Norcia come quella di Assisi. Ma sulla manovra ancora sconto con Bruxelles, insoddisfatta dei chiarimenti forniti dall'Italia al Premier, ora la polemica è fuori luogo. Il calcio si è concluso sul 2-2 Udinese-Torino, si gioca ancora a Cagliari-Palermo e ancora sullo 0-0. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Accessibile ad ogni gruppo sociale, favorisce l'integrazione, può migliorare la concentrazione, la creatività, l'intuito e le capacità analitiche e decisionali. Queste alcune delle motivazioni che hanno spinto il Parlamento europeo a promuovere il gioco degli scacchi nelle scuole. Adesso anche in Italia qualcosa si sta muovendo. È importantissimo cominciare magari fin dall'asilo, perché gli scacchi comunque insegnano a migliorare la logica, anche a educare, a essere più calmi, più tranquilli, quindi secondo me sono un antidoto contro molti problemi sociali che abbiamo oggi. Parla così Daniela Movileanu, 19 anni, la campionessa italiana assoluta di scacchi, intervistata in occasione del primo torneo di scacchi organizzato all'Università La Sapienza di Roma pochi giorni fa. Quello che non tutti sanno è che anche l'Unione Europea ha detto sì agli scacchi nelle scuole di ogni ordine e grado, come ci conferma ad Olivio Capece, maestro nazionale e responsabile ufficio stampa della Federazione Scacchistica Italiana. Nel marzo del 2012 il Parlamento europeo ha approvato quella che viene definita una dichiarazione scritta. A cosa si riferiva questa dichiarazione? Al fatto che il Parlamento europeo invitava le nazioni a inserire gli scacchi tra le materie curricolari della scuola. Soprattutto i parlamentari hanno riconosciuto che al di là del puro lato agonistico, cioè della pura partita, gli scacchi sono qualcosa di più di un banale, semplice gioco. perché gli scacchi hanno molteplici legami con la letteratura, la pittura, il teatro, il cinema e così via, no? E poi è stato dimostrato proprio con studi scientifici che gli scacchi contengono molti elementi educativi e formativi, quindi aiutano la crescita dei ragazzi. Le scuole europee e soprattutto quelle italiane come hanno reagito? Allora, 3 anni fa la Spagna ha accettato e aderito, e quindi in Spagna hanno cominciato a fare i corsi nelle scuole per i ragazzi con un grande successo. Il problema qual è stato? Che mancavano gli insegnanti, no? E questo in realtà è il problema di molti paesi. E adesso da un paio di anni anche in Italia è possibile insegnare scacchi nelle scuole elementari e medie soprattutto. Lei diceva mancano per ora gli insegnanti, ma immagino che occorrano anche dei libri di testo per i bambini. Sì, beh, i libri di testo infatti non ci sono e ne stanno nascendo. Se posso darmi delle arie, io ne ho fatto appunto uno che si chiama Matto per la Regina, un bel libro illustrato a colori che gli insegnanti possono seguire assieme ai ragazzi, e parte diciamo da zero. Poi in questo libro particolare c'è un racconto tra due ragazzini, no, che fanno una partita, e la partita è spiegata, illustrata con tutti i commenti che possono fare i ragazzini quando giocano una partita, no? All'interno di Matto per la Regina, il manuale curato da Dolivio Capece, edito da Freemedia, anche un'intervista ad Andrea Serpi, maestro di scacchi e formatore della Federazione Scacchistica Italiana. È lui a spiegarci perché gli scacchi fanno così bene ai bambini. Gli scacchi sono un'attività che implica il confronto, il cercare sempre di migliorarsi, ma rispetto al proprio comportamento, al comportamento dell'avversario, e quindi il confronto e il rispetto dell'avversario sono tutti aspetti che sicuramente possono prevenire atteggiamenti o comportamenti di prevaricazione, ecco. Dopodiché gli scacchi stimolano anche i processi di pensiero in senso più ampio, e quindi l'attenzione, la memoria, l'analisi, il giudizio. Questi sono dei buoni motivi che fanno sì che gli scacchi trovino spazio nelle aule scolastiche. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. E dall'Europa non poteva mancare l'appuntamento con gli Stati Uniti. Già vi anticipo che domani sera avremo un'ampia finestra dedicata al voto, ad una settimana dal voto sulla Casa Bianca. Cercheremo di capire chi sono i protagonisti, come si vota, perché è importante anche per noi perché si voti. E per accontentare un ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666, vi do anche l'ultimo sondaggio verso la Casa Bianca, questa volta sondaggio del NBC con la Clinton che dice mantiene nonostante tutto vantaggi di 6 punti. Quanto sarà vero questo lo capiremo, ma intanto negli Stati Uniti ci aspetta Marco Valsania. Salve. Eccoti, ciao Marco. L'ultimo capitolo, ciao. Ancora botte di indagini tra i due, par di capire. Sì, la notizia del giorno restano ancora concentrate sulle indagini, le indagini legate allo scandalo delle email di Hillary Clinton. L'FBI a questo punto ha cominciato a setacciare questa enorme quantità di email ritrovate di recente in un'indagine parallela, 650.000 email. Non è chiaro se riuscirà, è possibile, non è chiaro se riuscirà a controllarle, a setacciarle tutte entro la data delle elezioni. Chiaramente vengono utilizzati software e tecnologie apposite per un'accelerato ricerca del materiale considerato possibilmente potenzialmente rilevante, ma ugualmente le dimensioni, i volumi sono tali che resterà probabilmente l'incognita. Il dubbio, si andrà a votare col dubbio, caso. Insomma. Marco, sei travestito? Sono travestito, non ce n'è troppo bisogno forse, di tutti i toni della campagna elettorale. Va bene. Diciamolo, negli Stati Uniti quanto mai è Halloween, ma forse lì non è ancora tanto ora di travestimenti, lo è sicuramente in Italia. Grazie Marco Valsania. A voi. Sì, non potevamo, abbiamo parlato di cose serie, di molte cose serie, ce n'è da parlare, ma è anche la notte di Halloween. E allora da Lucca Comics, il nostro inviato per raccontarci cosa ci si veste, cosa ci racconta il mondo dei fumetti per questa notte di Halloween, Adriano Palazzolo. Buonasera Anna, buonasera agli ascoltatori. A Lucca ci si traveste non solo per Halloween, perché durante Lucca Comics la città è invasa dai cosplayer, adulti e ragazzi che si travestono, ma hanno la particolarità di realizzare con le proprie mani i costumi, impersonando anche nelle fattezze, nel comportamento i loro personaggi. Qualche suggerimento preferiti. Anche se alle 21:56 ormai. Ma qui per Lucca c'è anche tutto domani per poter festeggiare, perché la manifestazione continua anche domani. Va molto di moda Harley Quinn, che è la fidanzata di Joker, che abbiamo visto in Suicide Squad al cinema, ma anche tante vecchie glorie. Ho visto molti personaggi di Dragon Ball, molti Super Mario e i grandi classici del Signore degli Anelli. Senti, ormai è affare anche italiano Halloween, sì. È affare anche italiano. E affare anche economico. È affare anche economico, considera che la manifestazione ha raggiunto l'anno scorso oltre 400.000 presenze, e quest'anno c'è stato un sold out di biglietti. Ovviamente i conti si faranno a manifestazione conclusa, ma sicuramente verrà abbattuto. Sei travestito? Quel numero. No, io non sono travestito. Aia, nessuno lo vuole ammettere, ma siamo in radio, tanto non vi vedono. Allora, travestiti o meno, Halloween o meno, anche questo naturalmente non potevamo non raccontarvi in questa giornata. Grazie a Cristian Goldoni in redazione, Pietro Lacorte in regia. Una buona notte, una buona serata ancora da Anna Migliorati. Torno anch'io domani a farvi compagnia. Poi da mercoledì tornerà Roberta Giordano. È come sempre Effetto Notte.